quella valle c'è un'osteria, è l'allegria di noi alpini. E se son pallida dei miei colori, nuovo dottori, nuovo dottori. E se son pallida come nostra Sabina, Sabina, sai piasti di vino. Lassù Cervino c'è una colonna, è la Madonna. Colonna e la Madonna di noi alpini. E se son pallida nei miei colori, nuovo dottori, nuovo dottori. E se son pallida come nostra Sabina, Sabina, sai fiaschi di vino. Cimitero, là nella valle c'è un buco nero, l'è il cimitero.